24 di Giovanni Minoli. Branson, el empresario de Virgin y promotor de vuelos espaciales, filtró un documento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde pediría despenalizar a las drogas. Esta filtración de este documento aparentemente original de la ONU que despenalice la droga, no solo la marihuana, la droga. Proposta di legge parlamentare trasversale per la legalizzazione della cannabis. Possesso per i maggiorenni, coltivazione e utilizzo per fini terapeutici. È stata presentata alla Camera dall'intergruppo presieduto da Benedetto Della Vedova e firmata da 218 parlamentari di molti schieramenti, soprattutto della sinistra di governo e di opposizione. Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera. Ecco, onorevole Giachetti, l'ONU raccomanda di depenalizzare la produzione e il consumo di stupefacenti. In Italia 218 parlamentari hanno firmato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis. Lei è tra questi, naturalmente. È un risultato che la soddisfa? Beh, rispetto ai problemi che abbiamo avuto negli anni scorsi, solo a ipotizzare una cosa del genere è sicuramente un passo in avanti. E che cosa cambia? Ma cambia che innanzitutto una base di 220 deputati che su 316 che sono quelli necessari per approvarla, una legge, diciamo, è un fatto storico, nel senso non credo che in questa legislatura ci sia una legge più sottoscritta. Ovviamente ora bisogna avere un percorso parlamentare e ascoltare. Ci sono tanti, lei ha indicato l'ONU, ma la stessa DNA in Italia dice che ormai la lotta col proibizionismo non si fa più da nessuna parte. Sì, ma ci sono studi però che dimostrano danni permanenti che fanno anche le droghe leggere, lei immagino li conosca. Ecco, la diffusione libera non è un incentivo al consumo? Ma guarda, questo lo si diceva anche quando si fece la battaglia per l'aborto. Tutte le donne avrebbero abortito, abbiamo visto. E invece stiamo vedendo che il numero diminuisce. Allora noi dobbiamo dire che la droga è libera, la droga è proibita formalmente, ma sostanzialmente è libera, soprattutto le è droghe già leggere. Libera. Noi la vogliamo regolamentare. È libera, ma fa male, e quindi insomma. Ma non c'è dubbio, ma guardi. No, appunto, voglio dire. Essendo libera, fa male, certo che fa male, e fa male come fa male il tabacco, come fa male l'alcol, che sono assolutamente. Diciamo una pena gravissima per il nostro paese, per i giovani soprattutto. Certo. Il problema è che la risoluzione o il tentativo di diminuire i cioè non è il proibizionismo la strada per risolvere il problema della droga, no. Questo che lei dice. Esattamente, e diciamo che il proibizionismo serve soprattutto a gonfiare le tasche della criminalità organizzata. Esatto. Senta, il progetto di legge dice che sarà possibile coltivare in casa fino a 5 piante di cannabis, è così? Esattamente. Perché? Perché abbiamo calcolato, diciamo, una misura minima che effettivamente sia compatibile con l'uso personale, parliamo di questo. Poi c'è la possibilità, prevediamo sia diciamo, la coltivazione in casa, sia la possibilità poi con i club, che sono diciamo una ipotesi che è già stata sperimentata in Spagna, che rimangono però ovviamente nell'ambito di un circuito privato, quindi non è che prevediamo che si possa fumare in mezzo alla strada. Ecco, cioè, onorevole Giachetti, infatti mi sembra che ci sia il divieto di fumarla in luoghi pubblici oppure nei parchi. Sì. A differenza per esempio però del è difficile tabacco. Questo da ottenere Beh, è difficile da ottenere, diciamo, la legalizzazione avviene se viene consumata a casa o ripeto o nei club. Evidentemente ci sono delle sanzioni per chi che sono amministrative, cioè c'è un'inversione però anche rispetto alla cultura che c'è stata fino adesso. Non si manda in galera un ragazzo perché si è fatto uno spino per strada. Certo. Eventualmente ci sono delle sanzioni amministrative che intervengono se questo accade. Cioè bisogna proprio cambiare culturalmente, diciamo. Completamente. Cioè la cannabis che si trova già oggi in tutte le scuole semplicemente viene, come dire, sancito uno stato di fatto. Esattamente, se poi diciamo lei sa perfettamente che diciamo un intervento c'è stato anche da parte, al di là del referendum che ci fu parecchi anni fa, ma c'è stata la decisione della Corte Costituzionale del 2014 che ha chiaramente detto che era una follia equiparare il consumo di droghe leggere con il consumo di droghe molto più pesanti, perché ovviamente avrebbe portato, e lo sappiamo che è stato così, in carcere tanta gente che probabilmente non ci sarebbe mai andata o che magari ci è ritornata proprio perché ci è passata. Questo sicuramente, dal punto di vista del consumo però è abbastanza chiaro che, come dire, chi consuma droghe pesanti in genere è passato come percorso dalle droghe leggere? Sì, guardi, io in generale vorrei avere rispetto a questa vicenda un approccio non ideologico. E no, non no, io... No, le dico anche un'autocritica, troppo spesso anche chi è a favore della legalizzazione ha un approccio troppo saccente. Io penso che noi dobbiamo affrontare questo aspetto con molta, molta umiltà, ascoltare chi di queste cose si occupa. Se ne intende. E semmai, se ci sono delle correzioni da fare, che ci saranno sicuramente, farlo. Infatti, quello che l'iter... Lei ne ha già identificata qualcuna che le sembra da fare? Di correzione? Ma guardi, no, adesso noi abbiamo presentato un testo che è la mediazione di 15 proposte di legge, quindi diciamo è anche riduttiva rispetto ad altri che prevedevano diciamo meno questa cosa del pubblico, per esempio del divieto in pubblico non c'era. Lo vedremo, dobbiamo ascoltare chi si occupa di queste cose, ripeto, in modo umile, però sapendo che oggi lei sa. Oggi il Messico, è arrivata la notizia che la Corte Suprema del Messico ha fatto una sentenza che legalizza l'uso della marijuana a fini ricreativi. E stanno cambiando le cose, e soprattutto sono cambiate nella casa madre del proibizionismo, che è l'America. Lei sa anche che nell'Ohio è il primo stato americano che boccia la legalizzazione di cannabis. Assolutamente. Dopo che era stata approvata in Colorado, Washington. Esattamente, però ecco, diciamo, l'Ohio è uno degli stati, ma ce ne sono tanti no, altri. No, per dire che esiste una discussione molto aperta. Se questo problema fosse risolto, probabilmente avremmo già noi la legge in Italia, e probabilmente questa sarebbe la linea assolutamente maggioritaria. Però non c'è dubbio che ci si sta rendendo conto, ripeto, il fatto che la DNA in Italia sostenga che il proibizionismo sta portando via energie per perseguire magari tanti altri reati e sta gonfiando le casse della criminalità organizzata, probabilmente diciamo è un approccio che ci deve portare, ripeto, noi non dobbiamo partire dal fatto che stiamo liberalizzando l'utilizzo delle droghe, il consumo delle droghe. Noi stiamo semplicemente cercando di regolamentare, e speriamo in questo modo anche di ridurre il fenomeno. Certo, senta, un'ultimissima cosa, ma secondo lei è una materia ancora da referendum questa o no? Io mi auguro, guardi, soprattutto mi auguro che non sia come tante altre materie nelle quali la politica scappa, una materia sulla quale la politica si assume le sue responsabilità. E non cioè che non sia un referendum per rimandare alle calende greche, insomma. Ma guardi, no, perché io penso che noi dobbiamo, adesso il fatto che ci sia... C'è stato un impegno, no, che entro la fine dell'anno... Le persone non sono poche. Quindi noi ci siamo adesso, abbiamo iniziato l'iter parlamentare, io spero che la politica, e anche in questo modo la politica riguadagni. Ecco, ma Renzi ha preso un impegno definitivo? No, noi abbiamo fatto un patto tra di noi tutti, perché lei come sa è trasversalissima questa proposta di legge, che il governo deve rimanere fuori, questa è un'iniziativa parlamentare, quindi noi vogliamo, ovviamente poi il segretario del Partito Democratico avrà magari la sua da dire, la dirà nel momento opportuno, però in questo momento questa è un'iniziativa puramente parlamentare, del quale il governo... non c'entra assolutamente nulla. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Dunque entriamo dentro la notizia. Mix 24. Dentro la notizia. Allora, liberalizzazione delle droghe, come sembra suggerire l'ONU. Avete sentito Giachetti, vicepresidente della Camera, parlamentare del PD importante, del PD renziano, promotore della legge firmata da 218 parlamentari. Ecco Mario, cosa ti sembra di quel... Sei d'accordo con Giachetti, voglio dire? Io sono d'accordo per la liberalizzazione delle droghe leggere. Non mi convincono alcuni punti, ma tutte le leggi sono ovviamente migliorabili. In particolare c'è questo della coltivazione in casa della cannabis, che secondo me, insomma, è la via... In Italia diventa la via per aprire un mercato parallelo su prodotti di qualità meno bassa, meno controllati. Ecco, Tonio da Cremona dice va bene la legalizzazione delle droghe, ma... come combattiamo la tossicodipendenza? Cioè, sì, beh, sono cose ovviamente che vanno insieme in qualche maniera, la prevenzione con la legalizzazione. Ripeto, ci sono alcune cose che secondo me devono essere ben focalizzate, però insomma, sai, c'è la DNA che lo dice. Sì, sì, assolutamente. Cioè, è un po' non è punto. La strada, quella del proibizionismo, è una strada che è fallita. Secondo te, Pietrangelo? Io sono di paese, non ho parole mie, allora mi affido all'apologo tratto da un grande libro che poi è diventato un grande film di un grande filosofo, Luciano De Crescenzo, da Così parlò Bellavista, dove è spiegato il punto di vista in tema di droga. Professore, sapete quanto costa un grammo di cocaina? 200.000 lire. Sapete, 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io, dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Russi. Hai capito che voglio dire? Lassù, c'è sta una firma troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni i capelli biondi. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e sotto. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante. Volesse ci girassi giù da moderno, due punti. Ne, strunze. A me? No signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o vado a fare l'abbonamento completo a dura tascia. Vabbè, insomma, vabbè. È un modo di affrontare il problema. Senti, a me viene in mente un film, Smetto quando voglio, che racconta di un gruppo di ricercatori che non te lo so se lo ricordo, che non trova lavoro, si mette a produrre una nuova droga sintetica con effetti stupefacenti per la loro vita. Io qui fra massimo 6 mesi divento cameriere, mance, un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. E per la legge italiana è perfettamente legale. E volevo farti delle domande su quella sostanza che hai appena assunto. Ad esempio, questa pulsione erotica nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere, dipende secondo te da quello che hai preso o no? Ti piaccio proprio io. Vabbè. Ecco Mario, la forza del denaro, diciamo, no? C'è altro secondo te su cui riflettere in vista di questa discussione in Parlamento? Sì, mi riallaccio anche un po' al film, no? Le ha citati Giacchetti prima, queste associazioni dedicate al consumo di cannabis, cioè i Cannabis Social Club, che insomma, sempre pensando al costume italiano, non vorrei che diventassero una specie di centrale poi di, oltre che di coltivazione, di spaccio di un po' di tutto. Sono pronto a cambiare idea, nel senso, sui punti che secondo me vanno migliorati, ovviamente, di fronte a validi argomenti, io dico ok, va bene, posto che sono per la legalizzazione, lo dico subito, anche perché se autorizziamo la vendita di superalcolici, sì, e ne conosciamo gli effetti, cioè basta guardare le statistiche, insomma, la conseguenza è che anche la cannabis deve avere lo stesso regime legale alla fine. Senti Pietrangelo, tutti i popoli nell'antichità hanno fatto uso di stupefacenti di vario tipo. Ecco, mi sembra che le cose siano diverse però. Si tende a dare libertà ma senza responsabilità. È così oppure no? Sì, c'è anche da considerare che adesso siamo in una epoca desacralizzata e quindi qualunque rito, fosse pure quello a cui facevi riferimento, che nella Paganitas ma anche nell'era cristiana ha da sempre accompagnato il percorso di immedesimazione, di estasi e quindi anche di preghiera, senza una guida vera è assai pericoloso. Tant'è vero che è tutta la retorica che ha accompagnato sempre l'esistenzialismo maledetto, quello degli artisti che attraversavano questa dimensione anche aiutandosi con le droghe, in realtà non faceva altro che generare degli equivoci. E siccome su questo tema io voglio portare il punto di vista di uno che viene dal paese, ancora una volta un piccolo frammento da Così parlò Bellavista, dove viene spiegato la differenza di effetti, in specie i peperoni. Che? Ma voi avete mai assaggiato la droga? No, vi scherzate, io non mi mangio i peperoni la sera perché non li digerisco, figuriamoci la droga. Vabbè, ok. Cioè, è di sacra tutto, eh? Cioè, è difficilissimo. Non c'è niente da fare. Io stavo là che ragione, che mi lambicavo sui cannabis social club, il peperone. Scusa, certo che è di sacro, sempre di zecche e argomenti simili parliamo. Tanti ci scrivono, Luigi, Riccardo, vabbè, che messaggi dicono? Lunghi, beh, insomma, discutono, scelgono, chiedono precisazione, ma la legge ancora non c'è, la e quindi stiamo parlando di una cosa in fieri, ma intanto sentiamo una voce. Però, una scusa, voce, c'è un sito e ci si può informare su questo, quindi, esatto, dopo lo bene, adesso sì, lo recupero. Ecco, dicevo, sentiamo una voce contraria, abbiamo sentito quella favorevole di Giacchetti, quella del senatore Carlo Giovanardi, che ha appena lasciato l'NCD, la maggioranza. Giovanardi, una proposta di legge che ha l'appoggio iniziale di 218 parlamentari e probabilmente passerà. Cosa succederà secondo lei? Che finirà nel nulla, perché è una proposta che non ha né capo né coda, assomiglia un po' a quella che con 70% dei voti al referendum hanno bocciato i cittadini dell'Ohio, che è il più popoloso stato del nord-est degli Stati Uniti, perché ha provocato solo dei danni. Senta, però è vero che il proibizionismo non è riuscito a impedire né la produzione, né lo spaccio, né il consumo di droghe leggere. Allora come si fa? E allora non è così, perché per fortuna in Italia abbiamo solo lo 0,1% della popolazione che ha problemi cronici, il 99,9% no. E nella popolazione complessiva italiana ha avuto contatto con qualsiasi tipo di droga, compreso la cannabis, il 3-4% della popolazione, 96% no. Se riproponessimo le droghe, la cannabis, come il tabacco, porteremmo questa percentuale del 3% in pochi anni al 30%. Senta, però, con le multinazionali che, come sa, stanno spingendo in maniera forsennata per incrementare un mercato che si aprirebbe della cannabis. Senta, il procuratore capo dell'antimafia Roberti il 25 febbraio ha detto che la strada è come minimo quello della depenalizzazione. Infatti in Italia è totalmente depenalizzato da 10 anni. Quindi ha ragione Roberti ha ragione. Ma scusi, è totalmente depenalizzato il consumo di droghe in Italia da 20 anni. Non c'è un reato di consumo di qualsiasi tipo di droga, che sia cocaina, che sia eroina, che sia cannabis. Il consumatore non è penalmente perseguibile, rischia il ritiro della patente o del porto d'armi, punto. Abbiamo appena fatto una legge che dà 18 anni di carcere a chi guida e provoca vittime sotto l'effetto dell'alcol o delle sostanze, compresa la cannabis, ma in Italia il consumo personale è completamente depenalizzato. Senta, è reato lo spaccio di droga, che è un'altra cosa. Ecco, volevo dirle, però, la notizia dell'ONU, che l'ONU ha, come dire, raccomanda di depenalizzare produzione e consumo di stupefacenti, come la vede schierato? Allora, da 20 anni noi siamo un esempio, siamo anche negli Stati Uniti, in Cina, in tutto il mondo, a spiegare che il modello italiano, che ha già depenalizzato, perché ritiene il drogato un malato da curare, non è quello degli Stati Uniti, dove a New York, a Washington, oggi se uno viene trovato, un turista, con uno spirale in tasca va in galera. In Cina rischia la pena di morte, in 2/3 dei paesi del mondo. E quindi la proposta dell'ONU? Siamo d'accordo, noi in Italia abbiamo depenalizzato da 30 anni. E quindi siamo allineati. Ma dice di depenalizzare lo spaccio, mica dice di depenalizzare lo spaccio, dice di distinguere il consumatore dal trafficante. Cosa, e quindi che il trafficante va ancora perseguito. E certo, ma ci mancherebbe altro, con i danni disastrosi che dà la droga alla salute pubblica e i costi sociali giganteschi che provoca il consumo di droghe, di ogni tipo di droga, alla società, sia per la mortalità, le malattie, sia per i guasti. Sì, ma se è liberalizzato il consumo, poi naturalmente anche il commercio diventa più semplice, no? Beh, certo, dove c'è l'esperimento in corso negli Stati Uniti, nei due stati, fanno già le cioccolatine per i bambini a base di cannabis, per educare i bambini, per avere sempre nuovi consumatori. E lei sa che non è vero che tutti quelli che usano la cannabis poi passano alla droga o alla cocaina, ma tutti quelli che sono arrivati alla droga o alla cocaina sono passati per la cannabis. Basta andare nelle comunità di recupero, i CERT, per avere la riprova di questa affermazione. C'è Mauro che risponde in qualche modo a Giovanardi e dice: se è vero che dalla cannabis si passa all'eroina, è anche vero che dal latte materno si passa poi al lambrusco. Quindi in un certo senso ecco Mario, ma dal punto di vista economico la legalizzazione sarebbe vantaggiosa? Sì. Questo è indubbio, nel senso che le ultime stime parlano di incassi extra per lo Stato nell'ordine di addirittura 8 miliardi di euro, nella stima più larga, diciamo. La minima è tra i 4 e i 5. In ogni caso, insomma, mi pare evidente che cioè c'è una strada abbastanza segnata su questo. Poi vedremo cosa fa il Parlamento. Do il sito internet a chi chiedeva informazioni, è www.cannabislegale.org, dove possono trovare i dettagli della proposta di legge. Che è ben vedere comunque della stima del PIL, moltissimi non lo sanno, la ricchezza prodotta dal traffico di stupefacenti è stimata in modo preciso 10,5 miliardi di euro, sono le nuove regole regole della contabilità. Ecco, Alessandro De Nicola, avvocato, presidente dell'Adam Smith Society, perché nel PIL sono stati introdotti i valori del traffico di droga? Perché si tratta di soldi che vengono fatti in modo volontario. So che può sembrare ridicolo, ma il traffico di droga, la prostituzione e il gioco d'azzardo sono frutto di scambi volontari, mentre ad esempio una rapina non è stata introdotta nel PIL perché non è frutto di uno scambio volontario. Ecco, e allora, siccome ci sono anche le prestazioni senza fattura, che non sono lecite nemmeno quelle, ma sono scambio volontario, allora hanno messo anche quei tre. Ecco, ma questo ha fatto dell'Italia un paese più ricco in termini contabili? No, perché diciamo, siccome l'hanno fatto dappertutto, non è che qualcuno si beve il trucco, nel senso che sì, è vero, il nostro PIL adesso è lievemente più alto, però non è che per questo cambia la nostra valutazione da parte degli investitori internazionali. Ecco, quella che avevano prima hanno anche ora. Ecco, ma professore, ma lei condivide questo sistema di contabilizzazione delle attività illegali? Si tratta pur sempre di scambi volontari, una volta che uno ci mette dentro, ripeto, la prestazione dell'idraulico, certo, senza fattura, questi sono scambi volontari che in qualche modo sono frutto della contrattazione tra le parti. E quindi lo condivide, per essere chiari? Sì, lo condivido. Non avrebbe proposto un'altra cosa? No, anche perché se lei tiene conto che in paesi come la Germania la prostituzione è legale, adesso comincia a essere sempre di più legale anche il consumo di alcune droghe, quindi per esempio la cannabis, anche in Italia, sì, la proposta, certo, legge sulla cannabis, infatti, il confine è labile. Certo, ma lei è favorevole o contrario alla legalizzazione del mercato delle droghe leggere? Sono combattuto, di principio credo che sia una cosa sensata, anche perché la guerra alla droga non ha portato grandi risultati, certo, finora, però vorrei prima vedere, per essere empirico, quali sono i risultati nei paesi in cui lo hanno introdotto recentemente, tipo il Colorado negli Stati Uniti. Beh, l'Ohio, per esempio, è meglio essere empirici piuttosto che di principio. L'Ohio per esempio ha fatto marcia indietro, mi pare. L'Ohio hanno votato contro, infatti, sì, secondo me in questi casi bisogna essere molto, molto empirici. Ecco, ma se sua figlia le dicesse: papà, ho costituito un cannabis social club, lei cosa farebbe? Direi: cercati finanziamenti, non a casa. Senta, un'ultimissima cosa, ma se questi soldi vanno alla criminalità, non è un controsenso? Sono assolutamente d'accordo che è una cosa non commendevole. Però ancora una volta è difficile mettere il limite di che cosa va alla criminalità e invece che cosa resta, ad esempio nel caso della prostituzione, alla prostituta, o nel gioco d'azzardo, che cosa resta ai giocatori e che cosa resta agli organizzatori di quindi picche clandestine. Quindi diciamo che viviamo una società abbastanza confusa sul piano dei valori. Molto confusa e, ripeto, siccome in parecchi paesi alcune di queste attività sono legali, diventava veramente difficile fare una distinzione tra un paese e l'altro e quindi si è preso il sistema dello scambio volontario. Ecco, Jacopo da Milano ci dice: finirla col proibizionismo di facciata consente di liberare risorse impiegate in efficaci politiche di contrasto e destinarle al controllo di un fenomeno che finora veniva sostanzialmente ignorato. Probabilmente è una sintesi abbastanza ragionevole. Pietrangelo, tu lo sai che anche il gioco d'azzardo, la prostituzione sono inseriti nella stima del prodotto interno lordo? Come no? Ricordo anche che l'anno scorso fu un tema polemico forte che accompagnò poi la vera percezione esatta della realtà economica italiana, e mi accorgo anche che ribalta i valori di quello che potrebbe essere poi il capitale umano. Forse sarebbe opportuno ricordare, credo che l'argomento si presti, che neppure un mese fa abbiamo scoperto che la vita di un ragazzo di 18 anni vale 10 euro. Era il prezzo del cosiddetto spino che non aveva pagato al suo spacciatore, per cui a Catanzaro sappiamo come è finita, attraverso una serie di coltellate che hanno messo fine alla vita di un ragazzo di 18 anni, il prezzo 10 euro. Mario, ti vedo pensieroso. Ti giuro che non ho fumato niente. Stavo pensando a una canzone. Senti qua. Silvia lo sa, lo sai che Luca si blocca ancora. Silvia lo sa, lo sai che Luca si 800 24 00 24, le telefonate, sms 349 238 6666, per sms i vostri commenti. Torniamo subito dopo la pubblicità. Pubblicità. Mix 24. Gabriele ci scrive: se tutti i proventi del commercio legale di droga andassero a combatterne il consumo, avrebbe senso. È una delle ipotesi. Tanti fanno delle proposte in Svizzera, dice Carlo da Treviglio. In Svizzera c'erano dei centri per la somministrazione della droga. Com'è andata? Bah, non lo so. Com'è andata? Luciano da Milano. Luciano. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, io volevo, ho due punti che vorrei che fossero chiariti. Uno, facciamo una legge per liberalizzare la droga, ma non esiste nessuna legge per farne la prevenzione, primo. Secondo luogo, di questi 260 onorevoli senatori che sono firmatari, quanti di questi sono già fruitori di droga? E quindi la cosa mi puzza alquanto. Vabbè, ok, d'accordo, dai. Grazie, va bene. Andiamo con la canzone. J'arrive au port, les mains vides, j'arrive au soir sans compter. Et à chaque matin, à vite, il me faut recommencer. J'arrive au front sans sagesse, j'arrive à l'âge sans raison. C'est sûr qu'on vit de justesse, c'est sûr qu'on vit sans raison. Grangelo stamattina. E oggi fu tutta una camminata fatta tenendo i piedi saldi sulle nuvole, perché non era Roma la città, non sembrava Napoli, parlava infatti francese, invece era Partenope, e doveva arrivare proprio Carla Bruni, elegante, perfetta, brava, che ne dica Valerio, il nostro regista, brava a cantare quasi come Fiorello. E in questa canzone, e ne consiglio vivamente il video, c'è una dedica particolare, che è quella dello stregatto ad Alice, con un messaggio: tutte le meraviglie. Carla Bruni, vabbè, ci deve essere sotto il significato che ha messo. Sì, qualcosa di misterioso. Indagare. Senti, Fabrizio da Cologno dice, 48 anni, dice: dopo aver inserito prostituzione e gioco d'azzardo nel calcolo del PIL, potremmo batterci per l'inserimento anche delle tangenti, perché comunque sono uno scambio volontario, porteremo il PIL dell'Italia a vertici europei. è un'ipotesi. C'è il sommerso c'è. Appunto, il sommerso nel calcolo del PIL esiste, quindi purtroppo il sommerso è sprofondato. È così. Senti Mario, la bolla cattiva, che tanto non ci sono, riflettiamo. No. Giovanni, io continuo a pensare che l'appuntamento più importante del 2016 sarà quello delle amministrative. E Renzi dice di no, Renzi dice che sarà il referendum, e lo capisco però. E l'ultima notizia, quella degli scissionisti del PD, insomma, di Fassina che dice: siamo pronti ad appoggiare le candidature grilline anche, e questa è, secondo me, è una cosa abbastanza grave dal punto di vista degli effetti politici. Perché che cosa significa? Significa che probabilmente Renzi avrà grandi difficoltà a far vincere i suoi candidati nelle città in cui si vota. Mi sembra che abbia messo nel conto questa ipotesi e punti sul referendum come misura del suo consenso. Vero, però è una situazione che secondo me giorno dopo giorno si sta ingarbugliando, si sta incartando, per meglio dire. E insomma, il Presidente del Consiglio, secondo me, di un partito come appunto il Partito Democratico, di cui è anche segretario, è difficile che poi nel 2016, di fronte a una rotta elettorale, se dovesse avvenire, vabbè, ovviamente nessuno se lo augura, faccia finta che non sia successo niente. Questo secondo me è il vero tema sul quale focalizzare l'attenzione, e secondo me sul quale si deve concentrare un po' di più il Presidente del Consiglio, a trovare una soluzione interna nel suo partito. Mi sembra lontana. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Noi interpretiamo una cultura keynesiana, non ci vergogniamo a dirlo. Alternativa al liberismo da Happy Days del segretario del PD. Ecco, onorevole Civati, Renzi alla stampa ha detto: quando attaccano Happy Days non lo fanno perché si sentono lontani da Fonsi, ma perché si sentono lontani dalla felicità. Ecco, onorevole, non ha aderito a Sinistra Italiana perché è lontano dalla felicità? No, Renzi direbbe il contrario. Non ho aderito perché per ora si tratta di un gruppo parlamentare e di una ricetta che non condivido. Secondo me le cose devono partire dal basso, come sto cercando di fare col Movimento Possibile, che a Napoli il 21 novembre si ritrova a discutere proprio di come organizzare quell'area molto grande dal basso, che non si riconosce in Renzi. Senta, sì, provando una formula nuova. Lei dalla Leopolda di Renzi si era smarcato temendo di diventare, parole sue, un attrezzo di scena. E anche il rischio in questo caso, essendo una iniziativa parlamentare, Il rischio è quello di chiudersi nel ceto politico, di parlare tra di noi, di trovare formule che funzionano benissimo, ma poi che nella società non hanno nessuna risposta. Non rispondono a niente. Ecco, ma questa è la preoccupazione. Non è il mio un messaggio contrario a Sinistra Italiana, è un messaggio di collaborazione, però provo una strada diversa. Poi a un certo punto faremo anche il punto. Ma che cosa la convincerebbe insieme al progetto di Sinistra Italiana? Se partissero anche loro dalla base? Io ho proposto a maggio di fare una cosa inedita, cioè di mettere in rete tutti i nostri popoli, i nostri sostenitori e provare a farli confrontare tra di loro prima ancora di decidere noi che cosa fare, di ripartire cioè da comitati locali in ogni città, in ogni provincia. Ho lanciato la proposta referendaria. Vabbè, insomma, ripartire dal territorio. Anche da una miscela diversa, altrimenti si mettono insieme le correnti. Perché sennò diventa di nuovo un piccolo partitino, questo è il rischio di questa Sinistra Italiana, così come è partita? Beh, il rischio è quello che corriamo tutti, intendiamoci, non c'è nessuna presunzione da parte mia, è quella di avere comunque un piccolo risultato rispetto a una grande platea di persone che, ripeto, non si riconoscono in questo Partito Democratico, in quello che sta facendo Renzi. Ecco, lei ha detto, Civati, quello che non ha fatto Berlusconi lo fa il Partito Democratico, con buona pace di Bersani. Ecco, quando è che potremo dire quello che non ha fatto Civati lo ha fatto qualchedun altro? Ah, io spero presto, ovviamente. Io sono molto in linea con Happy Days in questo senso, nel senso che vorrei andare al governo. Fassina però si riferiva a una certa rappresentazione della realtà. Quando i giorni saranno felici davvero, mi piacerebbe essere là, insomma, con altri amici ed altri compagni. Quindi non è che da grande vuol fare per forza il bastian contrario e basta? No, infatti, proprio per quello la maturazione riguarda tutti. Mi piacerebbe fare un movimento con strumenti inediti sul web, ma anche nelle piazze, con i banchetti di una volta, e provare a cambiare gli equilibri che ci sono, altrimenti lasciamo tutto così com'è. Insomma, fare dei 5 stelle bis in qualche modo? Beh, guardi, la differenza fondamentale è che io partirei da un programma di governo da condividere con gli elettori e da un fatto banale, che noi siamo di sinistra, insomma, una sinistra di governo senza radicalismi, ma sappiamo dove collocarci. Su molte cose il Movimento 5 Stelle, se dovesse andare al governo, secondo me si dividerebbe a metà o a tre quarti, e sarebbe un bel problema per gli italiani, non solo per i 5 Stelle. Senta, un'ultimissima cosa, da Torre però ha detto che le piacciono... Lei non potrà non associarsi a Sinistra Italiana. No, Dattore è stato più gentile, voglio essere gentile anch'io. Dattore ha detto che a un certo punto convergeremo. Quella storia manca, come è stata impostata, manca un pezzo che vi incarico con molta umiltà di rappresentare. Se riusciremo a mettere insieme il palazzo con la piazza, supereremo tanti problemi della politica italiana attuale, non soltanto della sinistra. Pietrangelo Salamino. Parigi val bene una messa e Bologna val bene una piazza. Enrico di Navarra, ossia Enrico IV di Francia, si fece cattolico per prendersi la Francia e disse appunto: Parigi val bene una messa. Abbandonò il calvinismo, entrò in chiesa e mise fine alla guerra civile. Tutto ciò nel 1594. E domenica scorsa invece... Domenica scorsa Silvio Berlusconi, davanti alla manifestazione organizzata da Salvini, ha detto: Bologna val bene una piazza, nel tentativo di prendersi l'unico spazio libero nel mare grande della politica, e cioè la destra. Quasi tutti i suoi, perfino il Cerchio Magico, sarà stato picchiato dalla Pascale, oltre che dai parlamentari, non sono stati contenti di questa scelta. La prospettiva concreta però qual è? È quella dell'Italicum, cioè la legge elettorale che impone la creazione di un unico listone tra gli alleati. E lì è appunto ben difficile che possano salvarsi i troppi fedelissimi, che sono già pronti ad andare altrove, pare anche verso Diego della Valle. Ma Bologna val bene una piazza, perché, ha detto Silvio Berlusconi, se mi sfilo dall'accordo con la Lega, tutti voi dove andrete a finire? Allora c'è una scena pronta per il futuro: il ballottaggio tra i 5 Stelle e il Partito Democratico, con l'elettorato di destra che giustamente andranno tutti tra le braccia di Grillo pur di non fare vincere Renzi. E quindi che cosa fare? Il Cavaliere accusa Renzi di voler prendersi tutto grazie alla legge elettorale che però lui gli ha votato. La questione è tutta qua. Salvini, insomma, si è disegnato questo fortino. Si è messo dentro col Cavaliere anche la giovine Giorgia Meloni. Beh, sempre, insomma, giovine. È sempre giovane. 36 anni è giovane. È sempre giovane. No, ce n'ha di meno. 34. Pure di meno. Giovinezza, primavera di bellezza. Noi abbiamo questo trucco. Allora, qual è la questione? Che in realtà i guai per Forza Italia sono tantissimi. Tanti. Allora, innanzitutto Altero Matteoli ha lamentato la deriva a destra. Maria Rosaria Rossi ha lamentato i buchi di bilancio. Laura Ravetto ha lasciato il suo fidanzato. Insomma, al listino unico soltanto 40 posti. Chi gliel'ha fatto fare a Salvini? Bologna non val bene un Italicum, piuttosto... Ma come siete materiali! Piuttosto... Allora vai, vai, sogli da fare. Piuttosto... Piuttosto val bene una mossa! Una mossa, sì. ...800-24-0024 il numero verde, 349-238-6666, con buona pace di Emily di Napoli, che dice che lo dico troppe volte il numero, ma dato che ci scrivono e telefonate è bene ripeterlo. Ancora oggi provo dolore per quanto accadde in quella tragica circostanza, la cui memoria deve servire a far sì che simili orrori non si ripetano mai più e che ci si impegni a tutti i livelli contro ogni forma di antisemitismo e di discriminazione. Le violenze dalla notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 contro gli ebrei, le sinagoghe, le abitazioni, i negozi segnarono un triste passo verso la tragedia della Shoah. Un triste passo verso la tragedia della Shoah, così Benedetto XVI e Papa Francesco hanno ricordato la notte dei cristalli. E ancora la cancelliera Merkel, nel 70° anniversario, ammoniva: mai più pogrom, razzismo e antisemitismo non devono avere una seconda opportunità in Europa. Ecco, ma in quell'autunno del 38 ci fu un silenzio colpevole della stampa, dell'opinione pubblica, su una notte di orrore e di morte. Così dall'archivio di Mix 24 il professor Piero Melograni. È un problema aperto del quale si discute da decenni, poiché vi furono dei colpevoli silenzi, senza dubbio. È vero che all'inizio, quando questa campagna esplose, anche nella famosa notte dei cristalli, il pogrom della notte dei cristalli nel 38, i giornali occidentali avevano i loro rappresentanti e corrispondenti in Germania e quindi parlarono ampiamente anche di questo drammatico episodio. È vero però che è stata sempre sottovalutata la potenza di questa campagna antisemita di Hitler. al punto che perfino nel 1943, quando gli ebrei romani furono catturati dalle SS e portati in Germania, molti di loro non avevano capito la gravità della operazione compiuta da queste SS e non credevano di essere portati in campo di sterminio. 9-10 novembre del 38, la notte dei cristalli, il tragico preludio alla soluzione finale per gli ebrei d'Europa, i testimoni, le connivenze, i misteri qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Mix 24. Allora, il canzoniere che è quello ancora di ieri. Ed il diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Monica da Napoli, non è che è al volo, è che è da ieri che aspetta. È da tante volte che aspetta. Ah, sì, so. Ah, lo indovina sempre? Allora questa volta? No, non, questa è troppo facile. È dai. Appunto che è facile. Vabbè, allora lo dica. Allora è Giacinto di Ugo Foscolo. Oh, bravissima, brava. Ha vinto il nostro libro. Però grazie. Vogliamo aprire una riflessione sul fatto che una cosa così facile non venga indovinata subito. Abbiamo abbassato il livello del nostro pubblico. Una bolla, Mario, finale. Your own personal Jesus. Allora, questo è Personal Jesus di Johnny Cash, l'ha scelto Gloria. Vi voglio informare che il mito del contante, anzi del tetto al contante, è proprio infranto. C'è una tabella sulla voce.info interessantissima dal 2008 al 2012. Che non serve a niente. Cioè il tetto sul contante non serve a niente. Non ha aumentato l'uso di carte di credito e bancomat, non ha diminuito l'uso del contante in maniera significativa, perché dal 43 è passato al 40 in tutta Italia, addirittura al sud è rimasto al 60%. Mario, ce n'è una per te per finire. Beh. Stefano che dice: perché Secchi continua a dire nessuno se lo augura? Siamo in molti a augurare una caduta di Renzi. Perché io non faccio il tifo né per l'uno né per l'altro, quindi non mi auguro né la sconfitta né la vittoria di nessuno. Segnalo un problema, faccio. E il problema è Renzi. Adesso... il problema è le candidature nelle città. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo come al solito le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, 14 settembre 2015. La dieta mediterranea dà benefici oltre quelli cardiaci? Cioè, dieta mediterranea forever? Forse sì, perché come sapete dieta mediterranea è quella che siamo tutti quanti abituati evidentemente a consumare, basata su pesce, olio di oliva e vegetali. Di fatto si è sempre saputo che ha degli effetti cardiovascolari importanti. Ma sul cancro? Allora, i ricercatori spagnoli hanno valutato con un trial, il solito studio, metà dieta mediterranea e metà invece dieta a piacimento, appunto gli effetti sul cuore. Hanno poi estratto tutte le donne che erano all'interno del trial, dello studio, e hanno visto cosa succedeva dopo 5 anni di dieta mediterranea in queste donne rispetto al cancro del seno. E questo è un dato per la prima volta originale, e si è visto che si dimezzava l'incidenza di cancro del seno. Ora, ci possono essere fattori confondenti di vario tipo, eccetera, ma è chiaro che questo apre di nuovo la porta a pensare che un'alimentazione corretta fa parte di una vita lunga, di una vita di buona qualità e anche di una vita con meno cancro.